Il suo nome era Ceruttigino. Una persona che esce da un'auto rubata, mettiamo una potente BMW dell'epoca, è il criminale, siamo al Giambellino, quindi la terra di Ceruttigino, e scende vestito con una pelliccia di lupo. La Milano criminale, sabato a Storiacce. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto alle 13.15 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.